America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Two things. The first is whether or not there is in fact a sustained recovery going on in the labor market, or are we stuck in the mud, so to speak. Ben Bernanke ieri in audizione al Congresso, lo avete sentito? Beh, insomma, l'economia continua a non promettere bene, c'è un problema strutturale, ha sottolineato il governatore della Federal Reserve, con l'occupazione. È stato forse il tono più preoccupante che ha usato finora, lasciando intendere che difficilmente in tempi brevi l'occupazione potrà migliorare. Forse, interpretano gli esperti, Bernanke vuol dire che ci vorrà qualche anno. Cosa significa questo? Beh, che probabilmente aumentano le chance di una manovra monetaria alle riunioni del Federal Open Market Committee che si terrà fra il 30 luglio e il 1 di agosto. In quel modo la Federal Reserve si allineerà in fondo con manovre già adottate dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca Centrale Cinese, dalla Banca Centrale Inglese. Quindi una manovra coordinata per far fronte a questa debolezza strutturale dell'economia. Debolezza che peraltro conosciamo, dunque oggi non vorrei soffermarmi su questo tema, ma vorrei parlare invece di un tema molto delicato, molto importante, che entrerà a partire da oggi nelle cronache. We have now tried to bring the international community together. They support my effort, but I'm challenging them to move that cooperation, that unity, to another level. Kofi Annan, l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, il mediatore per la pace in Siria. In Siria ci sono 300 osservatori, la loro missione scade venerdì 20 luglio, quindi dopodomani. È stata una missione difficile perché ci sono stati attentati, massacri, e spesso questi osservatori sono stati costretti nel loro albergo, non hanno potuto svolgere la missione fino in fondo. La situazione è delicata, per ora non sembrano esserci delle vie di uscita, ma in 2 o 3 giorni si dovrà decidere se si rinnova o meno questa missione. Ho con me ai microfoni di America 24 per discutere approfonditamente di questa situazione il nostro rappresentante permanente alle Nazioni Unite, l'ambasciatore Cesare Ragaglini. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque abbiamo un quadro, come ha sentito, un po' in movimento, abbiamo un rinnovo di missione, e cominciamo da questo. Secondo lei, entro venerdì, e credo che il voto potrebbe arrivare anche tra oggi, domani, insomma qualunque momento è buono, ci sarà? Qual è la situazione di questi osservatori? La missione che il Consiglio di Sicurezza aveva programmato e deciso e autorizzato 3 mesi fa viene a scadenza, come lei ricordava, venerdì. Vi sono 300 osservatori delle Nazioni Unite, fra cui anche alcuni ufficiali italiani, e in questo momento ovviamente al Consiglio di Sicurezza stanno discutendo non solo sul rinnovo, ma anche su come attuare il piano Annan, che prevedeva, come si ricorderà, la cessazione delle violenze, delle ostilità fra il regime e le opposizioni, e una transizione politica. Come sappiamo, le violenze sono invece continuate. Questa transizione politica non sta avendo luogo. Annan in questo momento è impegnato in un grosso sforzo sia con il regime di Damasco, sia con le opposizioni, sia con alcuni importanti paesi che hanno una loro voce nella crisi, a cominciare dalla stessa Russia, per vedere se è possibile riuscire a trovare un accordo in Consiglio di Sicurezza per approvare questa risoluzione e quindi anche il rinnovo della missione delle Nazioni Unite. Missione che lo stesso segretario generale alcuni giorni fa, nel riferire al Consiglio, proponeva di riconfigurarla, quindi meno osservatori militari, più osservatori civili. Ci sono state delle ipotesi che sono state discusse, per esempio la cosiddetta Yemeninsky Solution, perché persino a Mosca la chiamavano così, cioè ripercorrere il sentiero che si è tracciato nello Yemen quando volontariamente il capo di governo ha deciso di lasciare, il dittatore ha deciso di lasciare il potere, al suo posto si è insediato un suo luogotenente, con l'idea che nel giro di 2 anni poi si terranno elezioni. Ecco, siccome in Siria ci sono interessi, come lei ricordava, molto importanti anche per la Russia, che ha una base navale, c'è l'Iran che ha un rapporto forte con la Siria, è un corridoio importante per arrivare anche al Libano, a Hezbollah, c'è la Turchia che naturalmente al confine soffre di un flusso migratorio crescente, qualcuno dice che poi i numeri veri siano siano altissimi. C'è stato l'incidente dell'aereo turco abbattuto. Ecco, c'è un calderone molto complesso. Secondo lei questa Yemeninsky Solution, di cui a me risulta che Putin e Obama abbiano discusso al G20 di Baja California, può avere una possibilità? La soluzione yemenita è stata ventilata nel passato, è stata anche discussa in maniera molto informale. In questo momento è difficile poter configurare e immaginare che cosa possa emergere dall'attuale conflittualità in Siria. Quello che è vero è che la situazione in Siria è estremamente complessa, a cominciare proprio dalla posizione geostrategica della Siria stessa. Lei ricordava gli interessi che la Russia e l'Iran hanno in Siria, ma anche altri paesi. Si tratta anche di una conflittualità che vede questo conflitto proprio fra sciiti e sunniti. Ricordiamo che l'attuale regime al potere è espressione della comunità aluita, che è sciita, mentre gran parte dell'opposizione sono sunniti. Quindi si intersecano in Siria una serie di conflittualità che sono di natura etnico-religiosa, che sono di natura regionale. Ovviamente i paesi del Golfo hanno nei confronti della Siria non pochi risentimenti e poi sostengono ovviamente la componente sunnita. Vi sono gli interessi strategici della Russia, vi sono quelli dell'Iran, vi sono dei grossi problemi per quanto riguarda i paesi confinanti, a cominciare dal Libano, che ha una stabilità estremamente fragile, e quindi la situazione siriana è estremamente complessa e quindi anche la soluzione non sarà molto facile. Qualcuno dice che nel momento in cui Assad dovesse andarsene, forse le cose potrebbero in qualche modo ristabilizzarsi, però la storia ci dice che i dittatori, coloro che si trovano al potere, non mollano. Abbiamo visto cosa è successo con Gheddafi: ha rifiutato qualunque compromesso, è rimasto nel suo paese, la guerra civile è peggiorata fino a che non è stato ucciso. Lo stesso è successo con Saddam Hussein, lo stesso in qualche modo potremmo dire è successo con Mubarak, che ha resistito forse troppo a lungo. Ecco, perché secondo lei Assad non se ne va? Che Assad è, come dicevo, è espressione di questa comunità aluita, lui è tutto il regime, e la stessa comunità aluita sta facendo quadrato, perché l'incertezza del futuro, che non appartenga più alla stessa comunità, è talmente forte che li spinge a combattere e quindi a non mollare la presa sul potere. Abbiamo anche un problema iraniano, ovviamente gli ispettori continuano a non poter fare il loro lavoro, non si è raggiunto il compromesso che tutti auspicavano negli incontri di Mosca. Ecco, c'è il rischio che qualche cosa secondo lei esploda in questo calderone e vada poi a peggiorare la nostra situazione di crisi economica, perché viviamo già in un momento di fragilità economica? Se dovesse esplodere qualche cosa nel Medio Oriente e quindi nel flusso del petrolio, che probabilità, che rischi ci sono? Noi tutti ci auguriamo che alla fine la diplomazia e questi paesi fra loro prevalga la saggezza, ma secondo lei il rischio c'è? Ma il rischio c'è sempre, purtroppo, perché in una situazione così esplosiva e in un'area del mondo così esplosiva il rischio ovviamente è sempre presente, ed è per questo che la diplomazia sta lavorando in maniera così determinata, proprio per cercare disinnescare questa bomba siriana, che potrebbe avere, proprio per l'importanza che la Siria ha in Medio Oriente, dei risvolti e delle conseguenze nei paesi più vicini. Cioè, il fatto che ci siano degli interessi nei paesi del Golfo, che ci siano interessi dell'Iran, che ci siano interessi della Russia, questo non fa altro che complicare la situazione. Il problema poi non è soltanto politico, non è soltanto militare, non è soltanto geostrategico, c'è un problema anche umanitario, che è estremamente importante. Si calcola che ci siano oltre 100.000 rifugiati siriani, ma i numeri sono significativamente più alti. L'Italia in questo ha fatto moltissimo, perché aiutiamo i rifugiati in Giordania. Abbiamo mandato recentemente un ospedale da campo, abbiamo mandato una serie di kit medici per la cura di 20.000 persone, abbiamo inviato sempre kit medici con un volo umanitario in Libano per i rifugiati siriani in Libano, e lo abbiamo fatto anche direttamente in Siria, sempre con un kit medici per patologie generali per 30.000 pazienti. Quindi il nostro impegno dal punto di vista umanitario è molto forte, così come lo è anche quello di altri paesi, a cominciare proprio anche dalle Nazioni Unite, che coordinano tutto questo sforzo. Può dirci in cuor suo che tempi secondo lei possono esserci? È più ottimista che pessimista, o viceversa? Guardi, come abbiamo detto fino adesso, la situazione è estremamente difficile, estremamente complessa. L'Italia ha lavorato molto in questi mesi per cercare di trovare delle soluzioni. Abbiamo avuto un ruolo estremamente attivo nel gruppo degli amici del popolo siriano. Continuamente abbiamo contatti ad alto livello, il nostro Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, con tutti i loro omologhi dell'area e dei paesi amici alleati e di tutti quelli che hanno ovviamente un interesse a che la Siria, questa situazione in Siria possa trovare una soluzione. La Siria è un grande paese, riteniamo che abbia non solo adesso ma soprattutto nel futuro un grande ruolo in Medio Oriente, ma è un ruolo che si devono chiaramente conquistare e devono dare prova di maturità, di ragionevolezza, e noi siamo qui per aiutarli. Quindi la mia speranza è che anche in Consiglio di Sicurezza prevalga la ragione, prevalga la volontà di trovare quella soluzione di compromesso che possa permettere di andare avanti e di permettere anche a Kofi Annan di continuare questo suo ruolo di mediazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Lana Del Rey, è la nuova testimonial di moda per H&M. La cantante è stata scelta dal marchio svedese, pensate, per rappresentare la sua collezione autunno-inverno e il suo stile LA Noir di Lana Del Rey. This is what makes us girls. Remember how we used to party up all night, sneaking out looking for a taste of real life, drinking in the small town firelight, Pabst Blue Ribbon on ice. Sweet 16 and we had arrived, walking down the streets as they whistle high, high, stealing bullies' cars with the senior guys. Teacher said we'd never make it out alive. There she was, my little best friend, high heels in her hands, swaying in the wind. Oh, she starts to cry, mascara running down her little Bambi eyes. Lana, how I hate those guys. This is what makes us girls. The end begun. Everybody knew that we had too much fun. We were skipping school and drinking on the job with the boss. Sweet 16 and we had arrived, babies table dancing at the local dive, cheering our names in the pink spotlight, drinking cherry schnapps in the velvet night. Yo, we used to go break in, build a hotel, swim, running from the cops and our black bikini tops, screaming get us while we're hot, get us while we're hot. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.